Ci sei? Ciao. Ok, ti avevo chiamato qua prima, ma evidentemente non ci sei. No, la radio è accesa, c'è il volume basso. Infatti, se non rispondo qua, chiamala. Che là c'è lo squelch. Infatti. Vabbè, dai. Adesso siamo qua. Hai sentito, sto parlando dei cani. Ringraziamo. Qual è? Quel cane che è stato ammazzato dal padrone perché ha musicato la bambina, sicuramente stanno parlando di quello. Ho capito, però non si può fare una cosa del genere. Quello passa guai adesso. Quando sono queste cose, è un incidente, si pensa la giustizia a fare. Non è che tu puoi ammazzare un cane, cangurare un cane a chi ha musicato una vittima o musicato a qualcuno. La legge non te lo permette, quello passa a casini forti. Ah, sicuramente sì, quello adesso viene denunciato per maltrattamenti di animali, già ubrido. Sì, no, stamattina ho sentito anche a Bettino Sado alle 7:30, cioè alla Tigi Sardegna delle 7:30, dalle 7:30 alle 8. Poi invece oggi l'ho letto sul giornale e si dice che va picchiato a bastonate evidentemente, mentre invece la televisione mi ha detto che è stato strangolato con il suo stesso guinzaglio, con il suo stesso collare. Tu ci dovevi strangolare, loro cani. Ci doveva strangolare. Avrei strangolato quello che ha fatto l'articolo, quello che ha messo la fotografia. Pezzi di merda, ma io per i cani sono troppo. Infatti non ho neanche letto l'articolo. Ho commentato solo quello, la foto, perché non si possono mettere certe cose. Capito? Lei doveva strangolare, sicuramente. Gurimani, guarda, non quello collare, non Gurimani. Sì, prima l'ha picchiato col bastone. Capito? Perché se no si girava, l'ha indebolito un po' e poi l'ha cangurato pure con il suo collare. Miserabile. Infatti, evidentemente è così. Cosa credevi aver fatto? Si è praticamente. Si è procurato una rinuncia adesso per maltrattamenti degli animali. Va bene, questo sì. E sono due rinunce, uno perché l'ha lasciato incostruito il cane, perché ha mossicato un bambino o bambina che fosse. E due perché l'ha ammazzato, sono due le denunce adesso lì. Il cane sembra che c'era il cancello aperto. Il cane del genere tu lo devi custodire bene. Perché io lo porto in campagna e il cancello è chiuso, rimane chiuso con la catena. Se c'è il cane in giro, anche se il mio è un cane che non ha quell'aggressività. Capito, però non si sa mai e quindi il cancello rimane chiuso. Se viene qualcuno vado e tolgo la catena dentro. Quella è una cosa molto. Bisogna stare molto attenti con i cani così aggressivi. Tra l'altro quello appartiene a una categoria di cani che devono avere la museruola per legge. La legge è uscita nel 2016, quindi già da due anni. Il pitbull, il Rottweiler, il coso, come si chiama? Sono dei cani particolari che devono avere la museruola, il pastore tedesco, devono avere la museruola per legge, se sono sciolti devono avere la museruola, quindi già quella è una denuncia penale, perché è penale, attenzione, per aver ammazzato il cane c'è la galera, non so come va a finire, purtroppo il cane è impulsivo, è successo, vabbè, l'importante è che non l'abbia ammazzata, l'ha morsicata e ciccia. Ok, non deve succedere, però è successo, cazzo, cosa ci vuoi fare? A tu a chi è successa una cosa del genere, non chiami le forze dell'ordine, ammazzi Lugani. No, l'avevo impiccato all'albero io, te lo sto dicendo, l'avrei appeso all'albero. Lo so, purtroppo adesso lui si è procurato due reati, perciò sicuramente paga, perché paga, altro che se paga, ma è raro. Uno perché, ripeto, ha lasciato il cane libero senza la museruola e dunque incostruito, è già quella è una denuncia. E poi c'è il fatto che l'ha ammazzato e paga, grazie se si paga, ma ragazzi, e fanno bene se glielo fanno pagare, gliela fanno pagare con la massima certezza. Non va bene così, dai. Io le musica da Edo, e aveva fatto musica da un coso, quei cani aggressivi, come si chiamano, che non mi viene in mente, che sono violentissimi. E evidentemente questo cane, sai, arrivato alla certa età, impazzisce quella razza lì, è un po' come la lana, no? E il cervello non ci sta più dentro il tecchio, e allora impazziscono e fanno dei danni. Però i danni adesso lui li paga. E il Doberman è così, arriva a una certa età e poi impazzisce il cervello. Non ho mai detto che tu devi ammazzare. In quella maniera. Guarda, te ne racconto una. Dove lavoravo io, nella zona di adesso mi ricordo se era Baresi o Trinità-Lagurto, vicino all'impianto c'è ancora una campagna dove il padrone tutte le mattine andava, va ancora sicuramente, però quando c'ero io andava, quindi andava a mangiare il cane. Questo cane era un non un Rottweiler, poco fa un pitbull, ma bravo, perché mi avvicinavo sempre, lo accarezzavo, però aveva la mania di saltare, di uscire dal recinto, perché la campagna è tutta recintata, c'era questo cancelletto in legno, aveva la mania di uscire. Allora cosa faceva il padrone? Lo legava qua, una bella, neanche catena, collare non a strozzo, in modo che non si facesse male, c'era un tipo di pettolina, no? È una corda lunga, almeno 4-5 metri, giusto per muoversi, per non stare proprio... Ma una mattina c'ero io, è passata la forestale, non i baraccelli, no. La forestale passava spesso lì, soprattutto perché c'era l'impianto per controllare, eccetera. Ho visto il cane legato, ho detto: quel cane di chi è? Ho detto: il mio. Perché? Sdrighi immediatamente il cane. Come sdrigo il cane? Ma salta, va fuori, sdrighi il cane. Sdrighi immediatamente il cane, lasci libero il cane. Le mette la museruola e lasci libero il cane. No, non musica, ma sa. Esce, va nella strada, me l'ammazzano. E sto dicendo di sdrigare il cane, adesso. E non lo leghi più, perché se ripassiamo e troviamo il cane legato, sono gli ha detto con una parolaccia. Così proprio mi, apertamente. E te gli ha spiegato, il cane non si può legare, il cane deve essere sciolto, capito? Quindi immagina già di tu, cosa basta guai chi? Sì, beh certo, ma in effetti è anche giusto, perché ma quando mai tu devi legare l'animale? Metti di una nuova e il cane non sarà più così pericoloso, però è giusto che sia libero, ragazzi, se io voglio vedere, se avessi legato a lui a un palo, senza riuscire a muoversi, ma aspettando ciò, no? Non va bene, assolutamente non va bene. Come secondo me anche da rivedere il fatto che lo porti col collare e vedi il guinzaglio e poi lo tiri. Non è meglio che quel discorso lì li vedano la legge e mettere il guinzaglio magari alla pettolina, perché se lo tiri per il collo è un discorso, se lo tiri per la pettolina è diverso, non gli fai male. Io secondo me certe persone non vedo quando si fermano, io buo e tirate, cosa ti direi? Tirate un duro buio. Non va bene, se non lo sai tenere l'animale non lo prendere, è inutile stare lì a fare certe cretinate, o tu perché hai fretta, o tu perché magari non ti fa comodo fermarti in quel momento, lo sai che il cane si ferma lì ogni pochi passi, lo sappiamo, no? Però se poi lui ha il guinzaglio e col collare tu tiri, lo stai strangolando, io ho perso così. Infatti non ci sono più quei collari. Ci sono ancora, chi ce l'ha, sicuramente questo era così, ci sono i collari a strozzo si chiamano, proprio per evitare che il cane tiri, perché quando tira si strozza, capito? E sicuramente questo cane aveva un guinzaglio del genere, e prima l'ha cotturato un roccio, e poi ha tirato il collare a strozzo, e l'ha strangolato, capito? Strangolato lo vecchio, ne ha detto, bastardo miserabile, ho visto quella foto, mi stava venendo un'incazzatura. Stamattina stavo guardando il giornale, allucinante. Mia figlia anche lacrime ne sono scese. Ma si può fare una cosa del genere? Non so come si può fare una cosa del genere. Un incidente può succedere. Che succeda a un cristiano, che succeda a un animale, è un incidente. Ci sono le forze dell'ordine che mettono a posto le cose. Se hai sbagliato paghi, ma non è che hai da ammazzare l'animale. Tutto cominciano passa guai forte, ci sono sanzioni allucinanti e c'è la galera per maltrattamento ai cani, c'è proprio la legge varata dal governo per i cani. Sto gioco di Zende ha domandato i documenti, questo era un maresciallo della foresta, ha chiesto i documenti, ma i documenti del cane ce li ha, detto sì, ha controllato tutti i vaccini, ha controllato se aveva il microchip, ha controllato tutto, non ci permette mai più di legare il cane, lasci il cane libero dentro la campagna e lo custodisca in una maniera, se la recinzione è bassa la tiri su, faccia quello che vuole ma non leghi il cane, perché se ne passiamo e troviamo il cane legato sono problemi grandi, gli ha detto, ma grandi, si ricorderà di avere un cane, ha detto, gli ho detto, già va, accontoci, no, Rudogo, non li voglio io casini, Rudogo, adesso non so se l'ha fatto, o si è fatto come gli ha detto la forestale. Infatti, è così che deve essere, se tu non te la senti di tenerlo, dallo a chi lo sa, a chi lo sa tenere, non lo puoi maltrattare, la vuoi vedere, ma niente, è convinto di prendersi il cane così, no, solo per il gusto di amore, no, tanto io sono con un bambino, non posso più imparare i piatti, no, è così, no, ma non vuoi scherzare, è male una vita che esiste, tu non la puoi maltrattare e far soffrire una vita, anche se è una vita animale, ma non lo so io. Tanto se lo vede qualche animalista è capace che denuncia anche, e se non lo vede, lui non deve comportarsi in quel modo, ci mancherebbe altro. E vabbè, allora tornando, cambiando discorso qua, la radio c'era l'amico della Vodazza stamattina e dunque va bene così, va? Sono contento, Giù, sono contento, te l'ho detto, se aveva la possibilità, contattalo perché è una persona molto disponibile, quindi se ha la disponibilità di fartela non se ne crea problemi, ma stai pur certo che è fatta in ognuna, che è fatta da lui anni e anni, ed è sempre perfetta, non mi ha mai creato un problema. Ma anche il 430 la stessa cosa, uguale, il 440 l'avevo mandato su quando Bianconi era aperto, era tutto revisionato lo stesso e si è bloccato un relè, ma è una fesseria quello, è che non ho trovato il relè originale, capito? Se no è una fesseria sostituirlo, quindi non è quello il problema, però in quel contesto lì, in quel problema lì, solo lui ci può mettere le mani, non ce ne sono altre persone che capaci a fare una cosa del genere, capito? Quindi sono contento che ce l'abbia lui, vedrai che sarai più che soddisfatto, non soddisfatto, più che soddisfatto, tranquillo. Sì, qua ci mancherebbe, no, ma io sono contentissimo di averlo dato a lui per questo lavoretto qua, o meglio lavoro abbastanza significativo, per cui sono benissimo, e poi è di una gentilezza e di una correttezza straordinaria, non so, ma io già lo sapevo che era una persona straordinaria, lo sapevo già, non c'era bisogno nemmeno di verificarlo, che poi tra l'altro non ho verificato più niente, guarda, tanto per dire una, no? Addirittura si è disturbato di venire lui, anziché essere io, andare da lui e portargliela per evitare qualsiasi perdita di tempo. Lui addirittura è stato di una squisitezza in maniera impressionante, è veramente una persona a modo, veramente di grande amicizia, soprattutto da tenere in considerazione. Lo so, conosco un po' di tempo, lo so che funziona così, sì, ma fa sempre così, l'appuntamento viene lui e se la prende, poi quando è finita la prova ti chiama e te la riporta, no, non ce n'è problema, stai tranquillo che hai mani buone, ti ripeto, perché ha le mani d'oro in tutto, sia nell'elettronica che in parti meccaniche, dappertutto, è una persona che per l'età che ha c'ha il fatto suo, non c'è problema. Molto bene, allora appena è pronta poi la proviamo, vediamo se tutto procede bene. Quindi stavo sentendo un po' a tutto sport, allucinante, vogliono il vaffore anche il Ronaldo, là. Lo vogliono proprio eliminare del tutto, non solo dal calcio italiano, ma anche buttandole addosso Mondezza, per non dire altra roba, là. Sì, ma io ho la sensazione qua che ci sia qualcuno che ha pagato queste donne, che sicuramente saranno delle prostitute, sicuramente, perché se no non si presterebbero a un gioco del genere, proprio per annientare il giocatore, per annientare il campione, per creargli una resistenza difficile. No, non è possibile, guarda, non è possibile che poi addirittura altre tre donne. Ma quando mai? Ma che cos'è questo? Ma va a fare di professione. Il coso fa? Il violentatore o il calciatore? Io so che fa il calciatore. Non è possibile. Sono d'accordo, si capisce che è una cosa manovrata. Sono convinto, adesso io non vorrei sbagliarmi, ma sono convinto che c'è lo zampino di qualcuno della Spagna che hanno consigliato e pagato queste donne proprio per cercare di accusarlo in questa maniera, proprio per annientarlo. Forse non sopportano il fatto che sia andato via dalla Spagna. E allora, io adesso non voglio accusare nessuno, però guarda, e parlando anche con altre persone anche che non sono tra l'altro tifosi juventini, hanno avuto anche loro lo stesso idea di pensare a questo, che queste persone e queste donne siano pagate da qualcuno geloso che non vuole fare fuori. Ecco qual è il discorso qua. No, ma guarda che è statisticamente approvato che così non ci sono problemi. È tutta l'Italia che sta già mettendo in circolazione questa cosa. C'era Zampino, il presidente di dove giocava lui, non mi ricordo manco come si chiama, capito? C'era Zampino suo, perché c'è l'indagine in corso sull'espulsione di Ronaldo. Cosa pensi che sia terminata così? Sia la FGC, sia la Lega, sia la Juventus stessa hanno fatto un ricorso, cioè vogliono capire cosa è successo, perché quello non è un fallo da... Capito? E se si arriva a capire che è stato pagato o l'arbitro da qualcuno del Real Madrid, o è stato pagato l'assistente di porta, sono problemi grossi, perché quella è una cosa che non si può fare, non si poteva vedere, cioè è una cosa che non si poteva vedere, un rosso diretto così, senza fare un fallo aggressivo, un fallo che veramente da espulsione diretto, io non l'ho mai visto. Non l'ho mai vista in vita mia, io seguo il calcio da ragazzino, non ho mai visto una cosa del genere. Quindi può darsi pure che ci sia qualcosa che non sta funzionando. Andare via da lì, lui dopo 9 anni sicuramente ha creato problemi, Real Madrid sta calando tantissimo, perché ha bucato in casa, ha bucato con Valencia, ha buscato in campionato, non c'è Ronaldo la prima, assieme al Barcellona, a Roma e Valencia quarta o quinta, quindi... Capito? Sono tante fatalità, tante cose che possono essere proprio la realtà di quello che sta succedendo a questo giocatore. Sì, no, ma io dico che ne mancano i gol, perché questa è la risposta a quei deficienti di colleghi suoi della stessa squadra dove era prima, che avevano detto che adesso giocavano meglio, vincevano lo stesso e gol facevano ugualmente. E infatti, si vede, sono già dietro, ti puoi immaginare, evidentemente ne mancano proprio i gol di Ronaldo, ne mancano. E a me non mi toglie nessuna testa, ripeto, io la mano su fuoco non ce la metto, però sono convinto anch'io che è proprio il presidente che gli sta facendo questi dispetti così, con i soldi, eccetera, trovando queste donnacce così, in modo che non possano accusare. Ma quando mai? Comunque lui è già andato a Lisbona, si è messo l'avvocato di Guido come si deve, addirittura mi sembra che sia l'avvocato che aveva qualche annetto fa, aveva addirittura difeso Tyson per lo stesso motivo, per la stessa cosa. Ed è già rientrato a Torino, ieri stesso è già rientrato a Torino, per cui penso che anche lui ci sia mosso e no, non credo che si sia mosso solo lui, si sta muovendo alla grande anche la Juventus. E va bene, dai, comunque, saremo a vedere gli sviluppi. Ma poi la cosa più grande è che dopo 9 anni mi viene a fare un'accusa del genere, brutta prostituta che non sei altra, ragazzi, perché quella lì, mio, le cose sono due, ho finito i soldi, se è vero che gli era dato, che anche lì, poi diceva anche una cosa, ieri c'erano sul Topo 24 le immagini dell'albergo dove appunto dice che aveva albergato, ma se questa è andata in albergo, come fai allora a parlare di violenza sessuale? Se sei andato in albergo, evidentemente sei consapevole. Mi sembra che sia evidente, no, il discorso. Poi il fatto che ci sia stata con lui e lui l'ha pagata, cosa c'è di male? Cosa ci sarebbe di male? Evidentemente, se tu sei andato in albergo in camera con lui, allora vuol dire non si è stata violentata, bensì si è stata consenziente per i soldi. Avassi mai capito di là questa disgraziata, e magari allora sta cercando anche i soldi, che lo sa, boh. No, ma no, non ci credo, non è un personaggio a poter fare queste cose. È come la stessa storia della figlia di Ariel Jack, uguale. Sono tutte menzogne, sono tutte critiche, sono tutte cose vergognose che sta succedendo di tutto veramente. Nel mondo dello spettacolo, nello sport, da tutte le parti, succedendo cose allucinanti veramente. Però mi dispiace perché è un giocatore che è venuto in Italia consapevole di fare del bene, di finire la carriera in Italia perché l'ha voluta lui, soprattutto la Juventus, cioè essere trattato in questa maniera non va bene. Vabbè, a prescindere che sia la Juventus, che sia l'Inter, che sia il Milan, che lui è un giocatore oramai che gioca in Italia e va rispettato per le sue decisioni che ha preso. Poi il Real Madrid ha incassato un pacco di denaro, quindi rompe le scatole, dice imbecille, dice un ladro, per carità, Real Madrid deve arrivarci. Sono convinto al 100% che quest'anno è l'anno della Juventus in Champions, e se non della Juventus di qualche squadra italiana, perché il Real Madrid e il Barcellona non fa paura più a nessuno. Sì, anch'io penso che quest'anno abbia molte possibilità maggiori rispetto agli altri anni, perché intanto perché la squadra è stata rinforzata e poi perché sta bene, oltre al fatto che le altre squadre, tutte quelle più forti, spagnole, non fanno più paura come prima, però ancora la strada è lunga e staremo a vedere. Per il momento la squadra sta andando molto bene e dovrebbe anche migliorare, sicuramente deve crescere ancora. Però il solo fatto che ha fatto già 10 partite e 10 vittorie non è poco, non mi sembra poco, 8 in campionato e 2 in Champions, e sono 10 vittorie che, ripeto, adesso penso che si diano da fare per battere il record della Roma, perché la Roma aveva fatto con Garcia, aveva fatto 10 partite di seguito in campionato senza mai perdere, aveva sempre vinto. Io penso che Allegri sarà sicuramente, vorrà battere questo record, ma anche se loro dicono che il record a loro non gli interessa, però sai, questo fatto qui fa gol a tutti, per cui anche lui penso che si dia da fare molto nei confronti della Juve. Piuttosto speriamo bene che non arriva il giocatore infortunato, perché ne abbiamo già 3 infortunati e adesso con queste partite della nazionale speriamo bene, perché tutte le volte che va nella nazionale c'è sempre qualcuno che arriva cercato. Boh, e chi lo sa, comunque. Siamo qua e aspettiamo la questione, com'è? Ma non credo, chi c'è nazionale? Bonucci, Chiellini, chi c'è? Bernardeschi, poi vabbè, verso nessuno. Non ci fa paura un infortunio di un difensore o... No, la mia paura è che tanto prima o poi in Champions, tu lo sai, non arrivano sempre i migliori, quindi sono sicuro che se dovesse incontrare il Real Madrid o il Barcellona, dove fanno la bubua, sono convintissimo. Sono convintissimo, qualche fallo di quelli belli, è una rottura di scatole, guarda. Mi dispiace perché sta dando il cuore, anche se sta segnando poco, però le azioni da gol sono la maggior parte tutte sue. E adesso Allegri, in conferenza stampa, ha detto appunto che Douglas Costa ha terminato il turno di squalifica, quindi si sta allenando nuovamente abbastanza bene, si è ripreso dall'infortunio, si è appunto inserito nuovamente nella rosa e appunto ha sottolineato, speriamo che abbia capito cosa vuol dire stare fuori 4 giornate e che metta la testa a posto. Quindi se rientra Douglas Costa con Cancelo dall'altra parte, la Juve è indomabile. Ovviamente è una pedina importante, Douglas Costa è una pedina molto importante, anzi sarà adesso carichissimo sicuramente con tutto questo riposo che non sta più giocando, ma mi sembra che è finita la squalifica, con ancora una giornata mi sembra che ne ha, se ricordo male, adesso non mi ricordo, se ne ha perso già 3, forse ne ha finite tutte le giornate squalifiche, perché erano 4, e dunque a parte il discorso che era anche mezzo fortunato, ma l'infortunio ormai è passato, non ci sono dubbi, perché non era una cosa così grave. Perciò, ma forse c'è ancora una partita da essere squalificato, non me lo ricordo qua. No, ha finito con l'Udinese, l'ultima squalifica era con l'Udinese fuori casa. Adesso il 20, mi sembra il 21, non mi ricordo con chi giochi, dovrebbe essere convocato. Così ha detto la televisione, poi stavo guardando Rai Sport. E vabbè, che dita, vabbè, niente di coso, niente di particolare, visto che è rientrato. Però insomma, vediamo. Dobbiamo stare molto attenti comunque, perché il campionato è lungo, hai visto il Napoli, non c'è da fare, c'è questo ragazzino che è in ottima forma e il gol te lo fa, dobbiamo andare a Napoli noi, attenzione, quindi non dobbiamo perdere in battibetta, abbiamo squadre forti, abbiamo l'Inter da incontrare, andata e ritorno, c'è il Milan, dobbiamo andare a Napoli, dobbiamo andare a Firenze, e c'è Bergamo, e ce ne sono partite molto interessanti, però Napoli è entrata già nell'ottica Ancelotti e sta segnando, sta sicuramente mettendosi in testa che vuole vincere qualcosa. E l'Inter si è ripresa, visto che è terza da sola, quindi vediamo. Beh, certo, allora la strada è molto lunga, il campionato ancora è molto lungo, come lunga naturalmente anche il torneo della Champions. Allora, la prossima partita adesso è col Genoa, in casa, la Juve, deve giocare. E mi sembra che, se ricordo bene, il Napoli gioca con l'Udinese. Sempre a Udine, sempre, infatti sono due partite di seguito che l'Udinese gioca in casa, se ricordo bene è così, poi vedremo. Ad ogni modo io ho notato una cosa qua, quando incontro le squadre di maggior grido si esalta di più e sono giocatori che ci tengono, sono orgogliosi e si impegnano anche di più. Mi è piaciuto anche molto Bonucci, si è integrato perfettamente, ormai i tifosi l'hanno perdonato alla grande, e lui si è proprio rimesso a disposizione della squadra e soprattutto dell'allenatore, e per cui addirittura ha dichiarato che lui un giorno farà l'allenatore della Juve. Si può immaginare quanto quanto è preso da questa squadra, da questo giocatore. Sì, ha sbagliato, l'anno scorso ha sbagliato, ha pagato, perché ha pagato, sinceramente, ma non credo che ripeta più un comportamento del genere, nella maniera più assoluta. Lui è juventino e basta, nel sangue addirittura, lui è juventino anche nel sangue, per cui adesso dà l'anima, adesso quando è in campo dà l'anima, veramente, e già l'abbiamo visto in queste partite che sta giocando alla grande, anche se aveva sbagliato la volta scorsa, e aveva fatto un gol perché lui non era riuscito a... Però sono errori, quindi si fanno, si sa, il difensore è soggetto anche agli errori, e dunque ci sta, però non può essere preso, perché ha sbagliato e la squadra avversaria ha segnato, e però poi si è ripreso perché ha segnato lui, è cosa importante. C'è un grande giocatore, Giulio, io quando è andato via non ti nascondo che mi è dispiaciuto tantissimo, a prescindere da quello che sia successo, però è un grandissimo giocatore, no, ma lui è un vincente, quindi è così, la Juve sa di che parte è fatta e alla prima occasione ha chiesto di rientrare con la Juventus, anche se il Milan ha ricevuto un bravissimo difensore che noi Giugendi, il Gattuso è un aino, difende Giuga a Biglia, non gli compreso che noi Giugendi Caldara in difesa, no, vabbè, si vedrà, ha un po' di fortuna anche questo Gattuso, il Milan ha vinto di nuovo, però c'ha dei giocatori come Higuain e Suso che non ce n'è per nessuno, è chiaro che i gol li fanno, ma la difesa mi sembra un po' più debole rispetto alla nostra, molto più debole. Comunque, il campionato è lungo, si vedrà quando giocheremo con quelle squadre di sì, mi pare che sia Udine e Napoli e la Juve in casa con Genoa, sì, il 20 o il 21, insomma, ricordo, perché c'è la nazionale oggi e poi c'è anche domenica la nazionale, mi pare. Però io oggi ho la vaga impressione che quest'anno l'Italia non si qualifichi ai mondiali, ho la vaga impressione. Anch'io non ne sono convinto, perché con la squadra che abbiamo, ma devo dire che non è nemmeno colpa degli allenatori, assolutamente, non abbiamo giocatori italiani, no? E dunque mancano gli elementi, per cui no, io colpa all'allenatore non ne ero, la verità, come non ne avevo dato nemmeno Ventura, e a Ventura l'hanno trattato male, senza rendersi conto che non abbiamo giocatori, e cosa vuoi fare? Sono tutti stranieri, tutte le squadre, addirittura anche in Serie B sono tutti stranieri, ci sono in Serie C, ci sono in Serie D, ci sono nei campionati primavera e gli stranieri. Beh, è chiaro che a un certo momento, se non ci sono gli elementi, è finito il tempo dei Maldini, dei Cosacuta, dei Pirlo e così via, dei Tutti, dei Del Piero, eccetera, eccetera. È finito quella era lì. Quando Juve ne dava 8 o 9 giocatori in nazionale, oggi cosa ne dà? Oggi ne dà 3, ne dà, non di più, Bernardeschi, ne dà Bonucci e Chiellini, il portiere Perin, ma il portiere è sempre il portiere, dunque non è quello determinante come giocatore, non è più quel blocco difensivo della Juve, soprattutto quel centrocampo che era di ferro, tutta la parte difensiva a partire dal centrocampo in giù, si vede bene, non io la verità, io ho quasi compassione di Mancini, perché Mancini sembra così, però una persona onesta e seria, non vedo il motivo perché uno debba essere criticato, fischiato, eccetera, oltre al fatto che lui giudicano anche i diritti, ma comunque quelle sono tutte le cretinate che dicono in giro e io penso proprio di no. Avanti qua. c'è la TV accesa qua, il casino sta facendo in Campidano. Sto raga a terra, ma ci. Allucinante, ha crollato anche un ponticello, eh. Passata l'acqua nella strada, ma Maria Dio. Allerta meteo. Il qua sta più vigilando. Sta facendo pisciarella, sta facendo rispetto agli altri posti, ma meglio così. Meglio così. E giù. Sono d'accordo con te. D'accordissimo, non d'accordo. Però, ti ripeto, giocatori non ce n'è, ma si può convocare Giovinco, mica convocato Giovinco in nazionale italiana, no? Come attaccante, anche gli attaccanti non ve ne è, ma Giovinco ha convocato. Poi c'è chi dice che Barella gioca al primo minuto, chi dice che è in panchina perché è troppo giovane, io non riesco a comprendere, ma Cinibur, ma cioè, cosa pensa di fare? Già non ne hai giocatori, sfruttati quelli che hai. Il Cagliari ha dei buoni elementi, anche se sono grandi, ma che ne fai una bella convocazione? Anche se sono grandi c'è l'esperienza, un tempo fa uno, un tempo fa l'altro, questa palla prima o poi entrerà. È inutile che ti affidi sempre a Immobile, a Insigne, Candreva, Perotti, cioè, tanto Perotti e Balotelli non l'ha convocati, quindi. Però non ne ha squadra. E sono convinto al 100% che non si qualifica neanche quest'anno la nazionale italiana. Basta. Anch'io penso che non ce la faccia. Capita. Tu pensa, vuole mettere Bernardi e si c'entra avanti. Vuole mettere. Comunque adesso vediamo. Bernardi chi è uno? È una mezzala. È una mezzala di supporto. Centravanti, un po' di punta, guarda, un po' sì, lo so, l'ha chiamato Giovinco, ma Giovinco in America sta facendo bene, questo bisogna riconoscerlo, è già anni che sta facendo bene, però sta giocando in America, non è certamente come con le altre squadre europee, no? Tu devi incontrare le squadre europee che ti mandano un capo a Mandarino, guarda, per carità, no? Adesso vediamo, ha richiamato Verratti, ci dovrebbe essere anche Verratti, ci dovrebbe essere sicuramente sulla parte sinistra come centrocampista, poi si sa, gioca a 4 in difesa, 4-3 dovrebbe fare, 4-3-2-1, sicuramente gioca in quel modo, per il giocatore non lo so, ma adesso la formazione sarà quella, però... E come la penso io, leggendo i giocatori che lui ha messo in che ha chiamato, sicuramente fa così, un 4-3-2-1. Dice, perché avevo sentito che metteva Bernardeschi in centrale, cioè centravanti, ma comunque staremo a vedere. Va bene, dai, riprendi. Chi era l'amico? Avanti. Massimiliano, Massimiliano. Qua Sonio, buonasera a tutti. Massimiliano, avanti Massimiliano, buonasera. Mi è appena uscito dalla doccia, da, piano piano mi sto vestendo, vi sto ascoltando. Va bene così, dai. Claudia. Tutto a posto. Leggerellina, leggera. Figlia mio, è tutta di Tretto Gas, anzi, bugia, stamattina sono uscito. Dovevo prendere due cosette. Caldo, c'è caldo, però c'è questo vento di beccio che sta caricando acqua da tutte le parti. Campidano, Igresiente, tutte quelle zone, c'è allerta meteo. Capoterra è torra tutta la Gardu. A Urbia è torra tutta la Gardu. E poi giù, io, cosa devi fare? Purtroppo, contro il tempo non si può andare avanti così. Avanti Giulio, hai ascoltato dopo la marea, dai. Ciao Massimiliano, me l'hai ascoltato anche tu da parte mia, perché sì, vabbè, ogni sera, non ci sono ogni sera, però diciamo che già mi faccio sentire abbastanza spesso, sei tu un pochino in questo periodo, restio ad entrare in frequenza, ma non solo tu, un po' tutti, però... Quando ci sentiamo è un piacere di ascoltarci, soprattutto con persone come te, come Claudio e altri anche, dai. Va bene così, ma ci vediamo, alla grande. Adesso è il periodo, hai ragione, il periodo è questo. Questo è il periodo che ti mette il bastone tra le ruote quando magari stai lavorando, eccetera, perché se ci fanno molte giornate, allora vi impedisce a voi che poi lavorate così, dove state lavorando, il battempo non è piacevole. Ripeti ancora, Massimiliano, vai. Diciamo che, Giulio, in questo periodo sono stato un po' assente perché un po' per il lavoro, perché sto facendo dei turni, quindi magari lavorando di notte, la mattina si dorme, in radio non c'è nessuno, la sera si va a lavorare tutta la notte, quindi è un problema. E vabbè, prima viene sempre il dovere, poi il piacere, la radio c'è sempre tempo a farla, però adesso sono un po' incasinato ancora perché sto facendo dei lavori a casa, quindi la radio rimane spenta tutto il giorno. Quando sono a casa così magari 10 minuti accendo un attimino a vedere se c'è qualcuno. Guarda, ti dico che 2 o 3 giorni fa l'ho lasciata accesa dalle 8 del mattino alle 7 di sera. Nel canale 10 non v'era un'anima, quindi fatelo un gol, cosa tengo a fare accesa. Va bene, riprendi ancora, Giulio. Sì, Massimiliano, sì, ma è così, ormai diciamo che le persone che entrano in frequenza sono proprio limitatissime, sono contatte su una mano, e quando riusciamo a completare il numero di una mano, guarda, è già grande cosa, perché di solito in 2 magari facciamo questo per un paio d'ore la sera quando capita, o massimo 3, di solito è così. Gli altri magari si trovano sul nostro canale, anche lì le persone sono sempre quelle 2 o 3, non di più. E vabbè, non abbiamo l'intelligenza o diciamo di essere tutti insieme, pazienza, dai, comunque va bene così. Ad ogni modo non abbiamo niente contro nessuno, ci mancherebbe altro. Per noi il canale qua è sempre aperto per tutti, anzi spalancato addirittura. Abbiamo non il portone, il cancello abbiamo grandissimo di 10 metri di larghezza, per cui può entrare chiunque, noi accettiamo tutti con grande ammirazione, ci mancherebbe altro, Massimiliano. Va bene, dai, facciamo girare per Claudio. Avanti qua. No, ma per carità, non è già entro di tanto a salutare il 23, ma è un canale che non mi piace, no? Sono sempre QRM, il 5, il 23, il 20, canali alti e canali sotto il 10, ho sempre QRM. Poi questo è, ce l'abbiamo un sacco di tempo, abbiamo sempre trasmesso qua, quindi a volte chiamano, anche sento che chiamano anche da fuori. Vabbè, se c'è qualcuno, capito? Si è pagato. No, ma vabbè, lì sono 23, si fanno 2 chiacchiere tra di loro e parlano soprattutto di cose giornaliere loro, ed è anche brutto disturbare, perché noi parliamo di calcio, parliamo di tante altre cose, quindi no. Però non c'è nessun attrito, figurati. Assolutamente negativo. A me Massimiliano, il dito. Il dito mi fa ben male sempre, capito? Ma mi fa ben male perché ne sta saltando l'unghia, è quello il casino, capito? Credo che ancora non si sia attaccato l'osso, ma comunque mi fa male perché c'ho l'unghia mezzo attaccata, capito? Quindi quando metto la fasciatura che cammino, si muove l'unghia, mi fa male. Io avevo lo stesso problema, Massimiliano. Lo stesso problema, c'era l'infezione sotto, il sangue petto, ma mi faceva un bel male. Manco l'antibiotico mi faceva passare il dolore. Alla fine sono andato al dermatologo e me l'ha tolta. Me l'ha tolta lui, adesso è già quasi a metà. Ci vuole un bel po' di tempo prima che cresca tutta, ma comunque a più di metà, ci manca un pochettino per arrivare proprio alla punta del dito, ma grazie a Dio l'ho recuperato bene, ma avevo paura di perderlo col dito. usa una ciabatta, qualcosa che non ti dia fastidio, anche uscire se abbigliare e luce, usa meno fuori. Ancora già non c'è freddo freddo, fatta un paio di zavattoli, 10 zavattoli, perché è bene che non sia chiuso, che non sia pressato il dito, capito? Se no è chiaro ti fa male, con l'unghia così che stai perdendo, è chiaro che ti fa male, sì. Giulio, tanti saluti da Marco Natalino. Ah, ti ringrazio. Cosa cambia se lo rivedi? Io l'ho visto, quando è? Sarà 25 giorni più o meno. Era lì al bar dove la mattina vado io per la colazione, eccetera. Sono arrivato ed era lui seduto a tavolino, ma era con amici e no, ci siamo solo salutati a distanza, ma non mi sono intromesso, anch'io ero con amici, per cui non abbiamo, anche perché non c'era posto né in quel tavolino, e dunque ognuno è rimasto per conto suo in due diversi tavolini. Perciò, ma ci siamo salutati, ma comunque speriamo che rientri anche lui. Non ti ha detto niente a riguardo di quel discorso che è successo con la radio Escopos? No, non ti ha detto niente. Non sto parlando di Natalino, sto parlando di Mastro Natalino, il tuo collega falegname, il boh, 80 anni ed è ancora travagliendo, in via Catalocchino, capito? Via Catalocchino, io lo vedo spesso perché ogni tanto vado a trovare a Marras, il carrozziere che c'è lì, a prendere un caffè assieme, a fare due chiacchiere, e a volte a prendere caffè anche con noi. E mi sono permesso, siccome ti ho sentito parlare di lui, mi sono permesso di dirgli adesso che conosciamo, ha detto, Gumenti, noi abbiamo lavorato buono in pari, saluta a mio Dante, gioco con me che non lo vedo, capito? Sta ancora lavorando, è in pensione ma sta ancora lavorando. Sì, ah, Natalino Pintore, stai parlando di Natalino Pintore, certo, sì, è vero, è vero, siamo colleghi di mestiere, dunque ci conosciamo molto bene, ci conosciamo più di 50 anni, o quasi più di 50 anni, però credo, perché io lo conoscevo già da prima, e ti spiego il perché. Quando io allora non ero falegname, che facevo allora l'elettricista, già conoscevo lui, perché lui mi sembra che era mezzo imparentato con l'allenatore che avevo io quando io praticavo lo sport. Siccome andavo lì, l'allenatore abitava in via Genova, abitava proprio all'angolo di via Catalucchino, e l'avevo conosciuto allora in quel frangente lì. Però poi conoscevo anche i fratelli, che anche loro erano falegnami, eccetera, eccetera. Che poi, tra l'altro, prima che io iniziassi l'attività in proprio, per tre mesi circa, più o meno, ho lavorato da lui, ma per conto mio però, perché lui aveva due magazzini, uguale a quello che oggi, ce n'era un altro a fianco, dopo il portone, c'era il magazzino, il portone e poi l'altro magazzino. E mi aveva affittato quello in quanto io stavo aspettando che mi arrivassero le macchine, perché mi avevo ordinato le macchine, però non avevo del lavoro da fare, e avevo chiesto a lui, pagando l'affitto, se non potevo lavorare lì nel magazzino. E lui mi aveva dato, pagavo l'affitto, sono rimasto tre mesi, tutto il tempo che c'è voluto per preparare la bottega mia, ecco tutto lì. Sì, e già la passo a trovare, adesso sono un annetto buono, forse anche di più senza vederlo, perché quando vado lì dalle parte di Fusano, eccetera, eccetera, da allora mi avvicino per salutarlo, e prendiamo un caffè insieme, anche lui, e così bisogna il chietto, sempre, perché lui beve un vinello, beve. Avanti Massimiliano. Sì, dai, stavo aspettando che sono già pronte le signore. Vado a farmi una passeggiata, dai, che sono tutto il giorno rinchiuso dentro casa. Ok, ci sentiamo. Ciao Giulio, ciao Claudio e chi fosse in ascolto. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao Massimiliano, saluti a casa, dai. Già ci aggiorniamo telefonicamente. Avanti Giulio. Grazie per essere andato a salutare. È sempre un piacere riascoltarti. Dai, saluti in casa anche a te. Alle prossime. Sì, io qua, io ripeto, sì, con Natalino Pintore ci conosciamo da tantissimi anni, ma tanti, tanti, è un ragazzo, lui vabbè, più grande di me, di uno, 7-8 anni penso, una cosa del genere, di più ma di 80 anni, di più, penso che ne abbia 82-83 penso. Lui fa quelle case panche, tipo Steve Sarro, vai, abita su, abita dove c'è la bottega, abita su all'ultimo piano, so che abita lì, per cui è sempre lì, gli dicevo da vostro intanto, e vado in giro, non compro niente, almeno scendo qua, ogni tanto lui colpo di scalpello, lui c'è, mi faccio qualche casa panca, la metto lì, poi qualcuno, anche se non è che la vendi tutti i giorni, però qualcuno passa e la compra sempre. E aggiungiamo, dice, alla pensione, e beh certo, è tutto qua brodo. Sì, lo so, no, già è una persona abbastanza in gamba, è tranquillo, no, nessun problema qua, veramente. Natalino Pintore si chiama di cognome, ottima persona, ok. Comunque mi ha fatto piacere, i suoi saluti mi hanno fatto piacere. Avanti qua. Io sento qualcosa sotto, chi è? Vuole entrare? Nessuno, vabbè. Sì, io ci conosciamo da tantissimo tempo, quello del Tuio, figurati, nonostante sia 20 anni, dai, forse 20 anni, 25 anni più grande di me, non so, ma lui ha sempre voluto andare dentro. Mi aveva fatto, quando ero qua, al nono piano, ma ti parlo di tanti anni fa, uno sportellino per il bagno, uno sportellino per il bagno mi aveva fatto, avevo necessità di questo sportino, ma non metto manco 40 anni già, forse negli anni 90, una cosa del genere, e basta, poi ci vediamo, io tutte le volte vado lì, e parcheggio qui, poi mi faccio carraio suo, sempre. Quando mi vede gli rendi a Biondo, vado a capposteggio o vado in moto, allora non c'è problema, mi metto lì dove c'è il carrozziere. Ma siccome lui, il carrozziere entra e esce con le macchine, quindi dà fastidio, allora mi fa mettere lì nel passo carraio su. E andiamo a prenderci il caffè, sì, lui è amante del vinello rosso, a qualsiasi ora, io non tocco niente, la mattina avevo il mio bicchiere di vino a pranzo e basta, e quindi prendo il caffè, due chiacchiere e poi ginnanda. No, ho visto, stava facendo, pulendo delle porte, stava, pure deve mettere a posto due o tre porte, c'ha, sta facendo, ma a tempo bescio, ma ditomi, vi raggio dito, aghitomi, si rivolto, ma a tempo bescio, è che io non agio più gana di sa, ho detto, come vi detto. Non so se Juventino è interista, non lo so, stiamo parlando di calcio l'altro giorno, ho visto che non era, Ma quello non te lo so dire nemmeno io, la verità, a chi faccia tifo, non lo so nemmeno io, però so che già si interessa anche lui di sport, dai. Non proprio la grande come magari mi interesso io, però anche lui già si interessa. Diciamo che parlavamo molto anche di atletica leggera, del periodo che io allora ero un ragazzo e correvo, ripeto, sempre perché c'era questo Alberto, cioè Roma, Gilberto Pilastro, che era, io mi ricordo che era un cognato suo o qualcosa del genere, non so se era sposato questo Gilberto con la sorella di Natalino, non mi sono mai informato proprio bene, però avevo capito che erano mezzo imparentati con questo Gilberto, che poi tra l'altro mi piace molto, perché questo Gilberto Pilastro poi se era partito a Roma, perché a Sassari anche lui lavorava il gruppo insieme a Tende, ma non era andato avanti, anche lì, sempre lì, in via Catalocchino, di fianco al Natalino, e se n'era andato a Roma, e lì si aveva fatto una grande falegnameria, che pure adesso ci sono i figli, però lui è morto già un 3-4 anni, penso, forse anche di 5. Anche quella è una persona squisitissima, non so se tu l'hai mai conosciuto, si chiamava Gilberto o Pilastro, anche lui ex marciatore di allora, però era più grande di me ed era anche allenatore, infatti aveva lui formato la Polisportiva Sassarese allora in quegli anni, io parlo del 1960 addirittura, ti puoi immaginare qua. Guarda, io non so se è lui, ma un pirata l'ho conosciuto io, se era della scuderia di Sidi, io lo vedevo quando si allenavano al grande di età, perché anche Sidi è ancora, è vivo ed è anche grande, è stato anche il mio professore di cose, di educazione fisica alle medie, professor Sidi. Era della scuderia di Sidi, io li vedevo allenarsi lì allo stadio dei Pini, se è quello. Esatto, è quello, perché anche lui, proprio nel periodo che c'era Sidi, professor Sidi, allo stadio dei Pini, che lo stadio dei Pini l'hanno aperto e inaugurato nel 1962, se non vado errando, nel 1962, e dunque lì eravamo tutti i giorni, io e gli altri colleghi podisti, insieme anche a Pilastro, certo, eravamo tutti lì, era l'unica pista che avevamo a disposizione a Sassari, oltre a quella della Torres, ma quella della Torres aveva la squadra privata, e dunque gli atleti della Torres si allenavano lì, si allenavano. Ma in questo Sidi, oltre ad allenare alla Torres, poi era passato allo Studium, era passata allo Studium e al Stadium, e allenava gli atleti della scuola, tutti gli studenti, eccetera, no? Perché diciamo che in un certo senso erano anche costretti questi studenti a praticare lo sport, se no avrebbero bocciato. Ma è così, sì, ma sicuramente è quello, perché quando abbiamo fatto i giochi a gioventù alle medie c'era il professor Sidi che era di commissione assieme a Pilastro, non lo ricordo perfettamente, lui, non mi ricordo come si chiamava, ma Pilastro me lo ricordo, quindi è lui. Il professor Sidi, c'era anche l'altro bravissimo atleta sassarese, lo stesso, che era lo stesso professore di educazione fisica, e me ne ricordo, ma io ti parlo degli anni 90, 87, 88, 90, gli anni 90, capito? Che andavo spesso io allo stadio dei Pini, lo stesso accordo, e c'erano sempre loro, infatti quando mi vedeva il professor Sidi, ma ancora oggi è un pocheretto diventato mezzo rincoglionito e mezzo geco, perché l'ho visto anche da poco in via Cosio lì, in via Levante, a piedi, l'ho salutato, ho detto buongiorno professor, ho guardato, ti sto riconoscendo, sono Marti professor, aspetta, non ti stavo riconoscendo, ma è mezzo geco è diventato, però è magro sempre, alto, correvami, ma raggiunti in Antugurria, ed era anche molto bravo come professore di educazione fisica. Certo, era un guido, sì, lo so, era il migliore allenatore, e in quegli anni lì era il migliore allenatore dell'atletica leggera che c'era a Sassari, sicuramente superiore a tutti gli altri allenatori. E dunque, no, anche Pilastro era bravo, è la verità, però non, era di un'altra categoria, era. Professor Sidi era di un'altra categoria, a parte il fatto che non erano atleti di cavalli di razza, non voleva nemmeno, ma tanto è vero, c'erano dei comuni tipo Giua, tipo Gianfranco Mela, Giulio Spano, Giulio Fieri, tutta gente fortissima, Borgini, Donna, che è quella, faceva salto in alto, tutta gente, come si deve, tutta gente forte. Poi col passare del tempo si è raggiunto anche Bruzzini e Nino Bruzzini in quella società, sempre parlando della Torres, e anche lui faceva parte, insomma, diciamo che i migliori atleti praticamente ce li aveva l'Alba, ce li aveva la Polisportiva e la Torres, ce l'aveva. noi alla polifortiva, io facevo parte della polifortiva sassarese e avevamo la squadra di marciatori e di podisti, di mezzopodisti, che quando si facevano le gare, tanto mi spiego, ad esempio se si faceva, non so, una gara tipo la Coppa Raggio d'Oro o la Coppa Cuore Immacolato di Maria, che so io, o altre cose, o Raimondo Pino, ecco, queste gare così, no, erano organizzazioni che avevano le varie società e la classifica veniva fatta in questo modo. Veniva poi unita la classifica dei marciatori, cioè della marcia, e la classifica dei podisti, dei mezzofondisti, eccetera, no? E chi faceva più punteggio vinceva la manifestazione, vinceva come società. Poi naturalmente c'erano anche le classifiche individuali. E la classifica dove ero io, cioè la società dove ero io, dicevamo con il solo punteggio della marcia, senza nemmeno sommare quello dei mezzofondisti, vincevamo la gara, dicevamo, infatti la società sempre la coppa prendeva, perché perché arrivavamo uno dietro l'altro, Pirino, io, Marras, tutti uno dietro l'altro, sicché facevamo un grosso punteggio che messo insieme e superava anche il punteggio delle altre società, tutte e due, sia della marcia che del mezzofondo, capito qua? Sì, ma me lo ricordo perché ci stavo molto io lì, anche quando ero via Pasquale andavo spesso, e molte volte l'ho trovato a lui, l'ho trovato anche allenandosi, facendo qualche giro, infatti glielo dicevo, ancora professore, io non smetterò mai, fa bene alla salute, ti tiene in forma, però l'ultima volta l'ho visto, boom, vai a mezzo rincoglionito. È grande mi dietà, no? Quanti anni avrà professor Sidi? Più grande di te? Molto più grande, io dico che supera gli 85, io dico che li supera. Poi dico come lui, sì, caspita, lui era un uomo grande, quando io ero ragazzo che correvo, lui era già un uomo grande. Io penso che lui, se io avevo allora in quel periodo, ad esempio quando l'ho conosciuto, poi tradizionalmente, che l'ho conosciuto io, nel 60, nel 58-60, dai, io avevo, sono del 42, fate il conto, nel 60 avevo 18 anni, nel 62 avevo 20 anni, che mi ricordo come se fosse oggi, che poi tra l'altro ero diventato campione sardo dei 10.000 metri, su pista, proprio lì alla Torres avevo vinto i campionati sardi nel 1962, campione sardo di 10.000 metri, 10 km, no? E lui era già, non aveva avuto lui, io penso che allora in quel periodo avesse già un 40-45 anni, buoni, perché tu somma la mia età a tutta quella differenza, io suppongo che lui ha superato gli 85, penso. Li ha superati sì, perché quando insegnava aveva più di 60 anni, quando era a scuola, io non lo ricordo, era grande. No, 60 anni no, questo dice 60 anni no, ma comunque 50 e rotti ce li aveva, ma era in forma, è secco come la brida, alto ogni gamba che ci aveva. A lui piaceva molto i salti in alto, infatti a noi quando facevamo educazione fisica o ci faceva fare una partitella, perché era un'ora, quindi una partitella a pallacanestro, oppure piattevamo il coso, ci faceva fare salto in alto, o correre, a volte ti fiancava. Infatti quando avevamo in mezzo l'educazione fisica ce l'avevamo fatta togliere, capito? Perché magari c'è alle medie ti capita, c'hai un'ora di italiano, poi c'hai un'ora di matematica, poi vai educazione fisica, devi tornare in classe. Avevamo fatto di tutto tramite lui di farci mettere educazione fisica alla fine a lezione, cioè finivi di fare educazione fisica e te andavi a casa, perché rientrare in classe non era possibile con lui. Bravo, assieme a lui lo sai che c'era anche il professor Cosciu. Sì, glielo credo. Sì. Sì, anche il professor Corso era una bravissima persona, anche lui era in gamba, competente, anche lui, sì, è vero, e non solo Corso, c'era un altro che adesso mi sfugge il nome, che tra l'altro faceva parte anche della società Fidal della provincia di Sassari, e oltre a Francesco Biondini, Monanima, che era allora in quel periodo era presidente della Fidal della provincia di Sassari, però non della regione, della provincia di Sassari, e tanti altri, i nomi che ormai li ho anche dimenticati. E conosciuto tu, sicuramente te lo ricorderai, perché all'incirca, non lo so adesso quanti anni può avere, e quel pompiere che faceva salto in alto, che lui è sempre stato pompiere, faceva salto, non salto in alto, salto con l'acqua faceva, adesso non mi ricordo come si chiamasse, sarà sicuramente in pensione anche dall'arma dei pompieri. Per cui non lo ricordo, tu lo ricordi, faceva sempre, lui era sempre a 3,50 m, non superava mai quell'altezza con l'asta, una misura bassissima, però lui aveva tanta di quella volontà e passione che si allenava continuamente, ma non è riuscito mai ad andare oltre i 3,50 m. Ho capito che, ma non me lo ricordo neanche io, quello che abitava in campagna, non ricordo se era le parti di San Camillo o verso la tua zona, non abitava in città, forse abitava nella zona di San Camillo, perché era sempre allo stadio dei Pini, a volte anche a piedi veniva, anche a piedi, Gurren, esempio, il pantaloncino è stato inverno. Sì, ma lì si allenava anche Carletto, quello che adesso è vigile urbano, che appartiene appunto alla cosa lì, con la squadra che partecipa spesso alle maratone, è stato anche in continente, non so se lo conosci Carletto, è un alto lo stesso, magro. Non me lo ricordo nemmeno io, non me lo ricordo, quello mai. No. Che poi tra l'altro non ci sono più andato, se no prima andavo sempre lì allo stadio dei Pini, anche la sera magari andavo una mezz'oretta perché volevo stare sempre a contatto, solo che ci soffrivo, quando andavo allo stadio dei Pini avevo sempre quella nostalgia che io non stavo mai più gareggiando, ma non ho. E allora alla fine ho deciso che non ci vado più, perché tutte le volte che vado quasi ma non vado di malumore dallo stadio. Tanto mi mancava il tempo. Io l'ultima gara che ho fatto avevo, mi sembra, 43 anni, ti puoi immaginare, avevo. E una mattina era successo così, che avevano fatto una gara qui dagli punti, una gara di amicizia, diciamo, però c'era anche la formazione agonistica anche in questa gara. E proprio partendo da sotto casa, dove abitavo io, dagli punti sino a Pratamona, capita, ti vedi tutta questa gente, ecco fuori e cos'era, c'erano tutti i miei ex colleghi, no, di sport. Cazzo, pare che mi hanno visto, mi hanno convinto, ma io senza allenamento, senza niente, e mi hanno convinto a correre, ma non ho niente, non ho niente, capita. E le scarpe, sono riuscito a procurare un paio di scarpe da tennis, sono riuscito, e di mio cognato, però erano queste scarpe da tennis, erano di un numero più piccolo di quello che ero io, erano numero 39, io ho numero 40, oppure il 41 secondo la forma della scarpa. Beh, quando sono arrivato lì nell'entrare di Pratamona, mi hanno dovuto cavare, perché mi avevo fatto il dito grande del piede, tutti e due i piedi, mi aveva fatto il sangue, perché era troppo corta, mi faceva male, ma io tutti sono, io ho continuato a scalzo con le calze che avevo appena messo, nuove, un paio di calze bianche, no, che io li usavo allora in quel periodo, le calze bianche, e sono arrivato sotto, c'era solo la caviglia, la parte della caviglia alla fine, a quando mi è venuta la porta a mola, e le calze non c'erano più, la ne ha mangiato, figurati, grazie a lui. Nonostante tutto, però, senza allenamento, senza niente, mi sono classificato fra i primi, e nonostante che c'erano una trentina di atleti ancora in attività agonistica, io ero ormai degli anni senza gareggiare e senza allenarmi più, ormai avevo 43 anni, e puoi immaginare se possiamo continuare ad attività. No, ma già fa bene. L'ultima che hanno fatto la Sassari Ugello, sono partiti su da Serrasecca, hanno fatto l'arrivo da Ugello, sono andare, ce n'erano parecchi di quelli che ho conosciuto io, parecchi. C'era anche Giuseppe Desole, che lavora in tribunale, è molto bravo lo stesso, si allena moltissimo con Carletto, con quella... manca fare l'apposta lì alla partenza, che la partenza era dove c'è il centro ecologico, no? Sulla Serra Secca, la partenza era da lì, c'era professor Siddi, commissario di gara, c'era lui. Sono salito in moto, una bellissima giornata, mi ricordo, salito in moto, parcheggiato, ho acceso una sigaretta e ho visto da lontano quei piccitti, ho detto mi torra, infatti ci ho avvicinato, ci abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha chiesto cosa stavo facendo, come andava, come non andava, ed era lì, era alla partenza, come lo spesso, ho visto anche da poco il floretto via Levante, però mi sembra che stia calando un po', Fugaretto rincoglionito a giudizio, non lo so. Però come ti dicevo tu, cavolo, è grande di età, secondo me ti ha superato di brutto, se non ha 80 zetti, buro, perché io mi ricordo quando era a scuola, aveva più di 50 anni, una cinquantina d'anni, cioè sto parlando, noi avevamo 15 anni, e quindi era grande di età, era grande di età, porca miseria se era grande, non so, adesso... La prossima volta che lo vedo glielo chiedo, il professore mi torna una curiosità, ma quanti anni ha lì? Me lo voglio dire e te lo dico, perché secondo me è lì, 86-87 ne avrà. Sì, ma sicuramente così, se ci sbagliamo, guarda, se sbagliamo di qualche annetto, ma siamo lì sicuramente a quell'età. Io ricordo benissimo il professor Siddi Capita, no, era in gamba, una persona a modo, una persona educata, anche che è solita abbastanza, a voglia, anche se lui era professore di educazione fisica, però non era un macolo, era una persona che sapeva il fatto suo, certo. Sì, io sempre quando ho conosciuto anche il fratello, Tonino Siddi, quello anche lui un velocista era, lui era un centometrista e faceva anche i 200 metri, faceva, e forse anche i 400, adesso non me lo ricordo più, era anche bravo, e mi ricordo che ai campionati italiani era entrato secondo, e pensa che aveva mezzo debutto, e nonostante tutto che era mezzo brillo, era entrato secondo allora, in quegli anni, ai campionati italiani. Adesso non mi ricordo se era a Roma o su dove era, boh, non me lo ricordo più, sono passati tanti anni, qua. Quello è a Torino Siddi. Dopo magari è diventato un pochino meno serio quando si era alleato con lo santo di Giusso, che facevano le cretinate e filavano i soldi alle vecchiette, quindi quelle mezzo suonate che credevano alle cretinate che dicevano. Ti ricorderai la studia di Francesco Santoro, lo santo di Giusso, te lo ricordi? E come fai a dimenticarti una persona del genere? Me lo ricordo sì. Sì, anche Tonino Siddi, sì. Che era fratello, non so se era più piccolo o più grande, no, forse più piccolo di del professore. Ma erano tutti atleti, tutti. Me lo ricordo perfettamente. Lui a scuola... La cosa sempre che ci diceva, non dimenticate mai di fare una passeggiata a piedi, una corsetta, tutti i santi giorni, perché fa solo bene. Infatti quando ero cura io pesavo 60 kg, 65 kg, neanche ci arrivavo, 63, 64, perché stavo sempre in movimento, mi allenavo tantissimo, eccetera eccetera, e poi sai come sta, molli, allora io già sto uscendo e comunque esco a piedi molto col cane, anche da solo non c'è problema, oggi sono sceso sino a giù, alla via Genova, a piedi, quindi no, non c'è problema. Giulie, si è fatta ora, asciuga, 8:15 sono, manco tutti ce ne siamo, bisogna che mollo, che c'ho già il cane che mi sta guardando, ma lontano, mi sta di, ma non hai gana, ho visto che non sta manco più piovendo, adesso l'ho porto, mi metto la tuta, il giubbottino, quello senza maniche, me lo porto un po' qua sotto, faccio sino all'edicola, sino giù al campo sportivo, una passeggiatina, e poi me ne risalto. Grazie alle due chiacchiere, se non ti rispondo qua, chiamami di là come hai fatto oggi, capito? Che lì c'è lo square, c'è sempre acceso, e quindi ti rispondo, magari questo per non sentire il rumore, abbasso il volume, ma conviene lasciare questo acceso, lo stesso con lo squelch, che 440 ce l'ha lo squelch, 140 non ce l'ha in AM, questo già ce l'ha, e così ci facciamo due chiacchiere, dai. Ok, grazie alla compagnia, grazie di tutto, saluto tutti quelli che sono all'ascolto, buon fine serata a tutti e buona cena, ci ascoltiamo domani. Giulio, a te il cambio. Ok, grazie anche a te, dai, per la chiacchierata, sì, domani ci ascoltiamo, e anch'io faccio così, metto uno squelch il 27, ma l'altro giorno tu avevi detto sono con quello, sono sempre acceso, sì che là ti sento per forza, e fa così, ho fatto, perché prima avevo chiamato qua, avevo chiamato il 27, ho visto che non mi ha risposto, pure fatto l'altro, ho sentito che sul 23 c'era gente che stavano chiacchierando, e allora ho chiamato in PMR ed ecco che mi ha sentito e ciccia. Va bene così. A domani qua, grazie a te la chiacchierata, dai, buona passeggiata con Filippo e ci sentiamo. Ciao ciao, speriamo che entri anche Marco e qualcosa di un altro domani così. E mi ha fatto piacere anche sentire Massimiliano oggi, che ho tanto tempo che non lo sentivo più. Va bene, ciao di nuovo qua, alla prossima, a domani, ciao. Ciao Giù, sì, ci aggiorniamo domani, no, io non sono a casa, è tutto acceso qua, sempre stavo ascoltando anch'io col DAC, il 27, forse non ti ho sentito perché avevo commutato l'antenna, però se tu chiami in UHF già è sempre acceso. Ok, ciao, buona fine serata, buon tutto e saluti a casa domani, ciao ciao. Ciao ciao. Ok, ciao, Gianni, tu sì? Sì, sono andato a salutarti perché stavo facendo roba, non potevo entrare là. Ti ho ascoltato comunque, buona serata a tutti. Ciao già, ci sentiamo domani, ciao. Ciao ciao. Ok, ciao Gianni, a domani, fatti sentire domani, siamo sicuramente qua. E facciamo quattro chiacchiere. Adesso vabbè, sono già le 8:10 circa, -12, vado da testa, per cui scendo anch'io, dai, scendo anch'io così, do una mano anche a mia moglie ad apparecchiare, tanto fra un 10 minuti qua, massimo un quarto d'ora si scende sicuramente. L'abitudine è ormai quella. Ciao Gianni, a domani, ciao, buona gla, chiudo, ciao. Ciao, ciao Giulio, ci sentiamo, buonasera.